varianti utili al mio modo di colorare l'orizzonte. Riesco a rilassarmi solo nelle code, il blu e il giallo delle poste che amano il mio cuore, e si sale in perfezione generale, infatti pessimi perché a tanta è ancora tanta fila. E chi l'ha detto poi che il traffico danneggia la salute? E chi l'ha detto poi? Osservare la pazienza altrui, vivo con calma la mia fila e mi diverto ad osservare la pazienza. Fa male.